Il nostro inviato Angelo Miotto ci chiama dalla questura di Genova. Angelo. Eccoci, allora, siamo in una sala riunioni al secondo piano della questura, in quella che è stata definita una conferenza stampa, ma che in realtà è semplicemente un momento per leggere un comunicato, per far vedere su questo tavolo quello che è stato sequestrato ieri. Procedo per ordine a elencare quello che vedo. Ci sono delle maschere antigas, degli elmetti, ci sono delle protezioni per gli avambracci, per capirci, quelle per invece i polpacci, 15-20 coltellini svizzeri, le lame sono state chiaramente aperte, una catena, ci sono degli opinel, altri coltellini, dei cappucci neri, altri occhiali da stile sub, una parrucca, due caschi, due bottiglie con del liquido scuro dentro, presumibilmente due bottiglie Molotov, una divisa, una casacca della polizia con un corpetto della polizia, quello che portano sotto, una pettorina da giornalista, dello scotch, dei ceroffi, insomma materiali per sutura, un termos credo, una pala, tre bastoni, un piccone, un pezzo di sifone smontato, del filo di ferro, altri bastoni, dei martelli da lavoro, vari indumenti neri, una bandiera anarchica, uno striscione del Global Resistance, ci sono delle macchine fotografiche, dei cellulari. Tutto quello che io vedo di spray anche, niente è messo in sacchetti di plastica, tutto è messo, buttato su questo tavolo. Il comunicato ci racconta di un'irruzione perché i poliziotti avevano avuto segnalazione dopo gli scontri di ieri e di altri ieri di chi le aveva bersagliate del lancio di oggetti e di pietre, e quindi hanno deciso di entrare, informata l'autorità giudiziaria, sono entrati nella scuola Diaz e hanno arrestato 92 persone, la maggior parte ci hanno detto stranieri, e poi niente domande, non si possono fare domande. A questo punto i giornalisti sono insorti perché chiaramente reclamando il diritto ad informare. Non avevamo armi, non avevamo niente, siamo stati caricati più volte, c'era una sensazione di sgomento, di paura, e non voglio più provare quelle sensazioni. Io non voglio più provare la paura che ci hanno fatto provare ieri e mi dovrò difendere, ci stanno obbligando a difenderci. Ciao. Io abito qui dallo stadio di Marassi e devo fare complimenti innanzitutto a quelli che ieri hanno manifestato qui dallo stadio a noi, i pacifisti. E vabbè, condanno la polizia perché è stata proprio in maniera indegna, non hanno dato diritto di dimostrare né ai pacifisti né a nessuno. Berlusconi si è spostato a Palazzo Tursi, la sede del comune di Genova, ed è stato accolto da una contestazione, soprattutto dalle finestre dei palazzi intorno al comune. Gli hanno gridato vergogna, assassino, fascista, delinquente. Eravamo tutti lì tranquilli e abbiamo iniziato ad arrivare a lanciarci addosso lacrimogeni. Pizzicavano, c'era il panico, una ragazza davanti a me si è ferita, è stato... eravamo contro il muro, non potevamo andare da nessuna parte, nessuno che ci poteva aiutare. Spero che si faccia qualcosa, perché come me c'è un casino di gente spaventata. È stata una bruttissima sensazione e spero che salti fuori la verità, vi prego, andate avanti, fate qualcosa. Chiudiamo qui questo microfono aperto ricordando una cosa sola, che l'impressione che noi riportiamo da queste impressionanti giornate è che il portato politico che è stato messo qui in piazza a Genova si è dovuto confrontare con un imponente apparato e un'imponente logica militare, e quello che da queste giornate credo si debba salvare è proprio il valore politico che è stato messo in piazza in questi giorni e che sicuramente non finisce qui.